9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque, oggi prendiamo spunto dall'inchiesta della quale avete sentito tutti, l'inchiesta che è scattata ieri dopo un anno di indagine che riguarda Equitalia. Delle tangenti pagate per ottenere, forse queste almeno le ipotesi che sono filtrate, per ottenere più facilmente delle rateizzazioni e per evitare attraverso l'accesso al sistema informatico delle esecuzioni immobiliari. Da dire che è un'inchiesta che è iniziata appunto un anno fa e che probabilmente non è finita, perché le 5 persone indagate ieri sarebbero solo il tramite di queste tangenti, e quindi i magistrati evidentemente dovranno andare un po' più a fondo. Tutto questo ci dà l'occasione, posto che naturalmente l'episodio di corruzione al momento, almeno da quel che sappiamo, è limitato, perché insomma parliamo di un'azienda che comunque tra collaboratori e dipendenti conta 14.000 persone che ci lavorano dentro, e parliamo di le rateazioni concesse sono state 362.000 per 22 miliardi, e qua si parla di 21 milioni di euro complessivamente, però le 29 perquisizioni ci sono, e c'è chi all'interno del mondo politico dice: questa Equitalia, aboliamola. Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Finanze, buongiorno. Buongiorno. Due vicepresidenti della Commissione Finanze abbiamo, perché abbiamo anche Enrico Zanetti di Scelta Civica. Buongiorno Zanetti. Buongiorno. Però partirei da lei, Ruocco. Allora, abolire Equitalia, ma per fare che? Allora, l'abolizione di Equitalia innanzitutto si configura come l'abolizione di una società per azioni che comunque fa utili sulle spalle dei cittadini e fondamentalmente sulle spalle dei cittadini deboli, perché Equitalia per sua operatività tendenzialmente si è spesso e troppo spesso rivolta ai cittadini più deboli, perché con il suo sistema di riscossione si accanisce anche contro piccole somme per poi chiudere un occhio, spesso abbiamo visto, troppo per somme ben più consistenti. Vediamo per esempio il caso dei concessionari delle isolazioni. Allora, questa è la vostra idea, l'avete espressa anche nel comunicato che avete diffuso ieri, permetta Ruocco, con un filo di retorica, perché il testo è: i miasmi tossici della corruzione e del malaffare avvolgono il carrozzone Equitalia, un moloch burocratico criminale che spreca denaro pubblico, eccetera eccetera. Però, retorica a parte, resta la prima domanda: che fare? Cioè, chiudi Equitalia, come riscuoti le tasse, come riscuoti i soldi dell'evasione? Affidare i servizi a gli enti locali, in particolare per la riscossione locale, attraverso un'assegnazione o internalizzata, oppure eventualmente, solo in secondo ordine, esternalizzarla, ma attraverso gare trasparenti che comunque siano affidate a soggetti puliti. E noi abbiamo anche chiesto, con un emendamento alla delega fiscale, che però non è passato, che non venissero comunque coinvolti e non venisse fatto degli accertamenti, affinché nessuno dei politici, anche entro il terzo grado, non potessero essere comunque coinvolti in questo tipo di affidamento. Mi scusi Ruocco, a questo punto mi sorge un dubbio. Sì. Allora, stiamo partendo da un episodio di corruzione, sì. Ma non è che l'internazionalizzazione del sistema all'interno di un comune... Internalizzazione, non internazionalizzazione. Internazione, sì. Cioè, questo, gestito direttamente ho capito, benissimo. Comuni. Ho capito, però non è che risolve il problema della corruzione, dell'eventuale corruzione. Il problema della corruzione è un problema etico che in questo paese purtroppo affligge questo paese e riguarda la classe politica e la classe dirigente attuale. Quindi lei ha perfettamente ragione, perché noi sì dobbiamo cercare delle modalità affinché sia più difficile arrivare a fenomeni di corruzione, ma la società civile deve anche fare un repulisti interno in modo che comunque questi fenomeni di corruzione vengano stroncati mediante proprio un miglioramento etico della stessa società. Questo è fondamentale, è assolutamente fondamentale, sono d'accordo con lei. Allora, questa è la sua posizione, poi naturalmente approfondiremo e andremo anche da Enrico Zanetti, l'abbiamo già ospitato la settimana scorsa, però l'abbiamo voluto richiamare perché, come vi abbiamo già detto l'altra volta, non è solamente vicepresidente della Commissione Finanze, non è solamente un deputato di Scelta Civica, ma nella vita è un esperto di fisco e quindi ci è particolarmente utile da questo punto di vista. Però prima, dato che si parlava di internalizzare il servizio, cioè portarlo all'interno dei comuni, io saluto Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei è stato il primo a, come dire, eliminare Equitalia per la riscossione dei tributi, quantomeno quelli locali, delle multe non pagate, eccetera, eccetera. Allora, di competenza comunale. Sì, tutte le cose di competenza comunale. L'abbiamo ospitata, l'ha ospitata l'amico Alessandro Milan a giugno, quando è scattata tutta la cosa. Io vorrei da lei un primo bilancio di questi 2-3 mesi con il serviposto che c'è stato agosto in mezzo, però insomma di questi primi mesi. No, posso fare un bilancio più completo perché sono più di 3 mesi, noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi abbiamo già un anno solare pieno, per tracciare un bilancio pieno, che è più completo. Ci dica allora. Il bilancio è assolutamente positivo, o meglio, dipende da cosa si intende per positivo, no? Per lo Stato positivo vuol dire spremere di più i cittadini, anche a scapito poi della loro tenuta sociale. Per un comune positivo significa che la gente paghi le tasse percentualmente più in orario, e questo è aumentata la percentuale di persone che paga più puntualmente, ma è semplicissimo. Quando un servizio è affidato ad un altro ente esterno, si ha l'impressione di non pagare le tasse localmente. E allora ha disponibilità di risorse, cioè quando il cittadino ce le ha le risorse le paga ed è noto più volentieri all'ente locale, perché è quello a cui vede tradotti poi sul territorio le sue tasse. Oltre a questo però c'è anche una propensione maggiore a testimoniare il proprio disagio. Noi siamo gente di montagna, siamo in provincia di Belluno, Calalzo è 800 metri sul livello del mare, la propensione delle gente di montagna a manifestare il proprio disagio non è altissima, pertanto capitava spessissimo che qualcuno veniva letteralmente stritolato da un sistema come quello di Equitalia, su cui hanno grossissime responsabilità tutti i ministri dell'economia che abbiamo avuto in questi anni, perché tutti hanno avuto questo sistema coercitivo, l'hanno inasprito per avere più risorse a disposizione per far quadrare i loro conti. Ma hanno responsabilità anche quei sindaci che si sono resi complici, cosa che noi non volevamo fare, si sono resi complici di un sistema che assolutamente penalizza in maniera assurda proprio i cittadini. Pertanto abbiamo deciso così di, come diceva giustamente il deputato del 5 Stelle prima, internalizzare il servizio. Lo abbiamo fatto in maniera non solamente comunale, perché l'ambito sarebbe stato troppo piccolo, noi siamo di 2.100 rotti abitanti, abbiamo dato ad una comunità montana, le tanto vituperate comunità montane che se sono sul livello del mare magari non servono, ma se sono magari in altri posti servono un po' di più, e assieme ad altri comuni abbiamo fatto una specie di consorzio, che consorzio non è, perché è la comunità montana, quindi non è un nuovo ente, che è attrezzato con un bando regionale della Regione Veneto, ha preso le risorse per gestire un ufficio che fa sostanzialmente la riscossione. Attenzione però, noi non applichiamo nemmeno l'aggio, cioè quell'aggio del 9% che applicava Equitalia, che era altissimo. Io faccio sempre un esempio a tutti, dico: guardate che chi portava i capitali all'estero sanava la sua posizione pagando un 5%. La vecchina che non mi pagava la bolletta della Tarsu, adesso Tares, no? Dei rifiuti, pagava, a parte il raddoppio della sanzione, pagava poi un 9% di aggio. Beh, insomma, io trovo che sia sproporzionato il fatto che la vecchina debba pagare più di chi evade. De Carlo, Il punto è chiaro, abbiamo capito questo, ci ha raccontato, io ho visto in questi ultimi due interventi, non l'ho ancora presentato, però ce l'ho qua in studio, ho la fortuna di avercelo qua in studio, allora Gianmarie Delbò, collega del Sole 24 Ore, un paio di volte scuoteva la testa, adesso arriveremo da te Gianmarie. Voglio sentire però, ricordando il 800 24 00 24 per intervenire. Poi c'è Twitter, Simone Spezia, mi scrive Camillo Corsetti, dice inchiesta con 5 indagati di cui un dipendente ed un ex dipendente, indagine su Equitalia, mi pare forzato. Sì, se volete è forzato, un'indagine che riguarda alcune parti di Equitalia. C'è chi scherza, lo fate sulla nostra pagina Facebook, Peppe Di Biagio. In deroga alla Costituzione applicherei agli indagati il principio della presunzione di colpevolezza, così tanto per far capire cosa vuol dire sentirsi sopraffatti ed impotenti. Non male. Comunque. Allora, Enrico Zanetti, come la vede lei? Ma allora, direi che quanto ha detto adesso il sindaco De Carlo è assolutamente corretto, nel senso che a livello di riscossione comunale, soprattutto di piccoli comuni, e riscossione di importi limitati, il meccanismo Equitalia non solo è particolarmente oneroso per i cittadini, ma anche funziona poco, o meglio, funziona meno bene in termini di efficacia di riscossione, perché tra l'altro le procedure di riscossione delle piccole pratiche finiscono per essere antieconomiche per l'ente stesso e quindi anche seguite meno bene, posto che, come veniva ricordato, c'è tra l'altro un aggio che è proporzionale all'entità degli importi che si recuperano. Quindi per la riscossione degli enti locali, francamente, togliere di mezzo il modello Equitalia, se si è in grado di porre in essere dei sistemi più agili e più efficaci, è una buona idea. Per il resto, occhio, attenzione, sangue freddo, perché Equitalia comunque inteso come strumento per la riscossione pubblica a livello erariale nazionale è uno strumento che va difeso, va riformato, ma va difeso, perché di sicuro tornare ai concessionari privati anche per la riscossione degli importi erariali sarebbe un errore clamoroso. Va riformato, cosa si intende? Va riformato nel suo di governance. Guardate che uno dei problemi rilevanti che oggi riguardano il sistema fiscale italiano è che c'è sostanzialmente una totale riconducibilità di tutte le varie fasi della filiera tributaria sotto alla fine il controllo dell'Agenzia delle Entrate, perché anche la riscossione è affidata a una società che è controllata dall'Agenzia delle Entrate e per il restante 49% dall'INPS. Non a caso con l'emendamento 9.12 alla legge delega noi avevamo proposto che si prevedesse lo spostamento di Equitalia sotto il diretto controllo del Ministero dell'Economia. Questo perché dopo anni e anni in cui, è inutile che ce la raccontiamo, la politica fiscale in Italia la fa anche in termini legislativi, e io lo vedo da dentro la Commissione Finanze, gli altri gruppi che continuano a ricevere in modo più o meno acritico proposte di emendamenti all'Agenzia delle Entrate e li prendono come se fossero quasi oro colato, mentre sono sicuramente degli importanti suggerimenti che io stesso guardo con attenzione, ma che talvolta non c'entrano perfettamente l'obiettivo, perché l'Agenzia delle Entrate, pur essendo un'istituzione importante in questo paese, ha anch'essa una sua funzione da portare avanti che inevitabilmente la porta ad avere una visione in molte parti condivisibile, ma non acriticamente condivisibile. Spostare Equitalia direttamente sotto il Ministero dell'Economia significa innanzitutto riportare al centro del governo, nel Ministero, la centralità, il ruolo di cabina di regia del fisco italiano. Oggi, anche in termini di conoscenza dei flussi informativi, cioè inutile ci raccontiamo, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, chiunque esso sia, ha un potere conoscitivo e di indirizzo che è molto maggiore a quello di qualunque sottosegretario, e questo determina poi tutta una serie di storture, anche se si cerca di operare con la massima buona fede e nel modo migliore. Purtroppo questo emendamento non è stato accolto da PD e PDL, e lo ripresenteremo in aula, però ogni volta si cerca di fare qualche cambiamento, non solo formale, si incontrano delle difficoltà abbastanza significative. Allora, grazie Zanetti, quindi una questione anche di governance, ossia di come è strutturato il controllo di Equitalia, insomma di chi domina su Equitalia. Gianmarie Delvò, come dicevo, ti ho visto scuotere la testa un paio di volte durante l'intervento di Carla Ruocco e in parte durante l'intervento del sindaco, mi dici perché? Allora, primo problema, giustamente. Tutti dicono, molti dicono aboliamo Equitalia, faremo Equitalia 2.0, la chiameremo Paga Italia, non so, Il problema è che un soggetto, come diceva anche giustamente Zanetti, che si occupi della riscossione dei tributi deve esistere. Noi ci stiamo accanendo, tra virgolette, contro Equitalia, che pure ha le sue responsabilità, secondo me per un motivo abbastanza semplice. Equitalia in qualche misura ha migliorato l'efficienza della riscossione, l'ha migliorata in coincidenza con un periodo di crisi. Nel momento in cui quindi lo Stato aveva bisogno di risorse, i cittadini avevano meno risorse da investire nel recupero, nel pagamento di ciò che non era stato pagato in precedenza. E questo ha scatenato un cortocircuito. Il problema però è che la riscossione giustamente deve esistere e deve esistere anche per rispetto a quei cittadini che invece le tasse le pagano alle scadenze e le pagano secondo le regole. Giustamente faceva notare il sindaco che è intervenuto prima, la disparità tra il costo dello scudo fiscale e il costo dei pagamenti a Equitalia. Ma qui si ricade nell'ambito delle scelte puramente politiche. Si decide di privilegiare una determinata forma di sanatoria rispetto al pagamento, diciamo, ordinario dell'evasione. E queste sono scelte politiche tanto quanto quelle che citava Zanetti di concentrare di fatto la gestione di Equitalia in maniera seppure indiretta nelle mani dell'Agenzia delle Entrate, che effettivamente è diventato un soggetto molto molto importante nell'equilibrio dei poteri burocratico-politici del nostro paese, ma lo è diventato anche forse per un vuoto della politica. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore. Ah, prima però, allora, mi scrivete. Vabbè, mi scusi, spezzo una domanda, lei è di parte, lei tifa per i partiti dei comunisti, caro Franco, ha già scritto ieri, non so quali siano i partiti dei comunisti, in tutta sincerità. L'altro ascoltatore, Ruocco, gli dica qualcosa a lei, a Demetrio da Verona, che mi dice rispetto per il 5 Stelle, non fare snobismo perché non sei neanche laureato e può darsi che un giorno potresti lavorare per il movimento se vinceremo le elezioni. Allora, a parte che non ne ho nessuna intenzione, sto benissimo a fare il giornalista, a prescindere, no, dalla parte politica. Però, per favore, non è, ho detto solo che c'era un po' di retorica nel comunicato, no? Mica grave. Io ringrazio l'ascoltatore, ringrazio anche lei che mi sta intervistando e va bene, ma io non mi attaccherei alle parole o alle espressioni. Qui dobbiamo fare gli interessi dei cittadini al meglio, quindi che penso che tutti siamo proiettati verso questo obiettivo perché siamo tutti cittadini, quindi è Bene. chiaro che questo è l'obiettivo. Oh, ottimo, ottimo, ottimo. E lo sono anch'io come giornalista. Allora, Livio da Genova, buongiorno. Buongiorno, salve. Io sono due aspetti dell'Equitalia 2.0, come si dovrebbe fare. Il primo, come dicevate voi prima, dal punto di vista etico, l'Equitalia 2.0 dovrebbe cercare di bastonare meno, quindi rendere le more meno pesanti e rendere più fruibile pagare quello che non si è versato. Spesso Equitalia va a chiedere tributi a piccole imprese che l'ignoranza non è ammessa, ma che non pagano certe cose perché non hanno avuto coscienza, perché è difficile sapere tutto quello che devi pagare magari in tempo per un'impresa che ha un'amministrazione meno forte. Quindi rendere più fruibile il pagamento poi delle imposte, come caratterizzazioni. La seconda cosa, essendo che Alessandro Milan prima parlava dell'eliminazione delle province, siamo sicuri che essendo che poi il problema è eliminare le province dove mettiamo i dipendenti delle province, rendere degli uffici usando i dipendenti delle province, quelli che hanno le competenze adatte per fare un Equitalia 2.0 a livello Sì, poi regionale. bisogna vedere dove mettiamo i 14.000 dipendenti di Equitalia. Comunque, l'osservazione interessante. Livio, la teniamo là. Luciano da Verona, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo informarla che ieri sul giornale L'Arena di Verona è uscita la notizia che il Consiglio Comunale di Verona, Sindaco Tosi, hanno deciso di eliminare Equitalia se arrangiano loro per i tributi. Non ricordo adesso il nome della nuova società, ma abbastanza di moto. Sul giornale è uscita questa notizia. Sì, mi pare, qualcuno me l'ha scritto anche via SMS, mi pare qui Verona, ma si stanno muovendo molti comuni, lo stesso comune di Milano si sta muovendo, se non sbaglio, Gianmarino, no? Tra poco dovrebbe scattare, perché il termine nel quale i comuni dovevano abbandonare Equitalia, abbiamo parlato ieri a Focus Economia, è stato prorogato una serie infinita di volte, e adesso ci sarebbe teoricamente una scadenza ultimativa, no? Se non sbaglio, Gianmarino. È stato prorogato proprio per la ragione che osta molte volte a questa procedura, cioè non tutti i comuni sono in grado di gestire una struttura del genere. E qui effettivamente il problema è grande, a parte che il problema di diciamo internalizzare risolve solo il problema dei tributi locali, quindi resta poi tutta la sfera tutta complessa. L'altra questione, certo. Esatto. Certo. 9 in punto. Mi scrivete su Twitter, mi scrive Confucio, inutile prendersela con Equitalia, il problema sono le norme fiscali, Equitalia fa ai contribuenti sudditi quel che le leggi promettono. Ancora, via SMS, il problema forse non è la riscossione ma le troppe tasse assurde. E ancora, Cristiano da Bergamo, il problema sostanziale è solo uno, la maggioranza delle persone o aziende non ha denari sufficienti per adempiere a tutti i balzelli. Nicola Porro, vice direttore del giornale, che oggi firmi un commento a proposito di questa vicenda proprio sul quotidiano, immagino che condividerai questi ultimi tre interventi che ho preso da Twitter e dagli SMS. Stavo per dirlo, al 100% tutti e tre, al 100% tutti e tre. E anche una cosa un po' impopolare, cioè sostanzialmente Equitalia è il braccio armato di norme e dell'Agenzia dell'Entrata, quindi insomma Equitalia alla fine c'entra relativamente poco. Certo, alcuni atteggiamenti di Equitalia nei confronti dei contribuenti potrebbero essere un po' più umani, però insomma sono le leggi che sono disumane. Sono le leggi che sono disumane, quindi c'è un problema di fondo che è quello che torniamo ad evidenziare sempre alla fine in questa trasmissione quando parliamo di tasse e di fisco, che è il rapporto tra lo Stato e il contribuente, molto semplicemente, no? Sì, e questo è il dato fondamentale, cioè ci sono, guarda, due o tre cose da dire secondo me, ma molto velocemente. La prima è che gli obblighi fiscali da parte dei contribuenti devono anche essere un pochino più semplificati, ovvio che le tasse sono troppe, è inutile che lo discutiamo, tu ne parli spesso, non è questo, ma gli obblighi fiscali devono essere semplificati, cioè in qualsiasi paese al mondo l'obbligo fiscale è più semplice che in Italia. Secondo elemento, se l'obbligo fiscale diventa difficile, come è in Italia, fatto di norme, codici che si accavallano, la possibilità che si commettano degli errori è elevatissima e quindi bisogna essere indulgenti nei confronti degli errori, cioè non si può avere un atteggiamento così rigido nei confronti degli errori dei contribuenti, posto che il legislatore e la stessa Agenzia delle Entrate norma e regola in una maniera che capiscono soltanto quattro mandarini che si chiamano super commercialisti o contabili o persone comunque che non fanno il lavoro normale. Che è quello di impresa. Terzo elemento fondamentale, cioè qui c'è un'idea che è sbagliata ed è sacrosantamente da cambiare. Il funzionario pubblico è al servizio del cittadino, al servizio, è pagato da noi, non è il contrario, non è il contribuente, non è il cittadino, non è il disoccupato che è al servizio dello Stato, è esattamente il contrario, noi lo Stato lo paghiamo con 800 miliardi di euro all'anno, con le nostre tasse e con i nostri sacrifici, perché sia al nostro servizio, entri in qualsiasi ufficio pubblico è sempre esattamente il contrario, c'è un atteggiamento che alcuni italiani poi accettano perché è una deriva quasi, non so, borbonica, per cui c'è il sovrano che comanda, i suoi funzionari sono funzionari del sovrano, questo non va bene, non è accettabile, cioè io non posso trovarmi nella condizione che quando telefono, quando vado in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ma come qualsiasi altro ufficio, dal catasto a quello che deve erogare le licenze nel comune, io sia un presunto delinquente, un presunto evasore e un presunto cementificatore della città. È esattamente il contrario, la mentalità deve cambiare completamente e questa mentalità vale 100 volte più delle norme. Io voglio un cittadino che entra negli uffici pubblici e dice: signori, siete miei servitori, scusami, capisco che ti scaldi, su questa cosa. Ma poi non è neanche offensivo, non voglio essere offensivo nei confronti dei pubblici dipendenti, eh? Io però vorrei rimettere un pochino le cose come stanno, va bene? Allora, voglio in bocca, ma anche la rabbia. Allora, voglio tornare da Carla Ruocco, lo ripeto, deputata del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Finanze, dice tra le altre cose bisogna riportare a livello locale la riscossione dei tributi. Ora, c'è una notizia che le do e le leggo di 10 minuti fa, Ruocco. Allora, la storia è questa: un imprenditore lombardo è stato arrestato nel corso di un blitz della Guardia di Finanza di Milano. Il gruppo è VS International Holding. Secondo l'ipotesi della Guardia di Finanza, allora c'è stato un sequestro di beni preventivo per 50 milioni di euro perché, così dicono i finanzieri, nonostante un fatturato da 82 milioni di euro e 2200 collaboratori sparsi in tutta Italia, non sono state versate né imposte all'erario né contributi all'INPS ed all'INAIL, quindi un'evasione totale su 82 milioni di fatturato. Questa naturalmente è un'ipotesi, per carità. Però il gruppo ha sede ad Usmate Velate, provincia di Monza e Brianza. Io quello che non riesco a capire, Ruocco, è come il comune di Usmate Velate possa, come dire, andare a riscuotere da un gruppo di quelle dimensioni, perché la cosa richiede delle competenze, una capacità di lettura dei bilanci profonda, cioè al di là del fatto che la scoperta arrivi dalla Guardia di Finanza, no? Del fatto. E poi però bisogna riscuotere i soldi da questi. E come fai a riscuotere i soldi da questi se non hai le competenze? Io ricollego il discorso con quanto detto prima. Quando noi parliamo di abolizione delle province o di abolizione di Equitalia, non vogliamo sbattere fuori tutti i dipendenti che stanno nelle province o che stanno in Equitalia. Noi vogliamo avvalerci di quegli stessi dipendenti, magari secondo principi meritocratici, perché come giustamente lei sta sottolineando servono competenze, e farle gestire in modo diverso. Quindi le professionalità e i posti di lavoro vengono salvaguardati e razionalizzati. Cioè trasportare i dipendenti e collaboratori Equitalia all'interno dei comuni, questo dice lei in sostanza. In sostanza che i comuni si possano avvalere delle professionalità ovviamente già formate, questo sì. Allora, Carlo da Padova, buongiorno. Sente? Sì, devo dire un po' malino, eh. Cosa c'ha, l'auricolare, il viva voce, che roba? No, che sono appena sotto una galleria. Ecco, infatti adesso la sentiamo meglio, prego. Ecco. Niente, io volevo dire al deputato 5 Stelle che la proposta di ritornare al privato, perché mi sembrava che avesse detto doveva fare dei concorsi privati per la riscossione, mi fa venire i brividi. Cioè, io vorrei invitarla a conoscere un pochino la storia. Non so se si ricorda che erano i cugini Salvo, gli esattori in Sicilia e via dicendo. Cioè, Equitalia ha sicuramente dei grossissimi difetti che mi sembra sono stati sottolineati finora e che vanno assolutamente modificati e tolti. Penso che sarebbe anche opportuno che i comuni in primis riscuotessero le tasse locali, ma anche l'esempio che lei ha appena fatto, non è possibile gestire dimensioni di quei generi, e qui stiamo parlando ancora di una ditta che ha solo interessi in Italia, pensi lei una ditta che ha anche interessi internazionali, ci vogliono competenze, conoscenze, non sono cose semplici. Quindi quando si parla di un argomento, io inviterei soprattutto una che è vicepresidente della Commissione Finanze, sottosegretario nel governo, il Movimento 5 Stelle nel governo non c'è. Sì, esattamente, mi scusi. Male pare, prego. Inviterei che avessero una conoscenza più approfondita, smettessero con la demagogia, con le facili parole. Abbiamo passato un ventennio di demagogia e facili parole e i risultati li vediamo. Adesso vorremmo concretezza, proposte concrete. Grazie Carlo, adesso farò rispondere la Ruocco, prima voglio sentire anche Emanuele da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo dire una cosa, innanzitutto siamo ascolto tanti commenti. Ma anche lei, Emanuele, anche lei è sotto una galleria? No, sono in viva voce. In viva voce. Guarda, facciamo una cosa, le do il tempo di accosti se vuole parlare, tolga il viva voce, si riprenda il telefono e intanto facciamo rispondere Carla Ruocco. Ruocco, prego, all'ascoltatore. Allora, innanzitutto, chi ha parlato di privatizzazione? Io la parola privatizzazione non l'ho pronunciata, semmai ho parlato di internalizzazione del servizio. Secondo poi, chi parla, oltre ad avere un curriculum professionale molto tecnico, che invito magari a leggere, lavora anche, prima di entrare in Parlamento, da 10 anni in Agenzia delle Entrate come funzionario. Quindi i funzionamenti e le competenze nell'ambito di questo settore le conosco bene. Terza cosa, quello che noi proponiamo non è demagogico, perché comunque non si tratterebbe di farlo dalla sera alla mattina, ma di accompagnare i comuni in questo delicato passaggio. Mi rendo perfettamente conto che i comuni hanno bisogno comunque, per svolgere le indagini, di supporto, ma è anche vero che noi paghiamo lo Stato profumatamente per avere nell'ambito dello Stato delle competenze e delle professionalità che i comuni potrebbero sfruttare. Ovviamente il passaggio è delicato e va seguito, e i comuni in questo vanno aiutati, non solo, ma si può creare comunque sinergia e collaborazione tra i vari comuni, tra l'altro. Allora, mi scrive via SMS un vostro collega, Ruocco, un vostro collega Zanetti, un deputato, via SMS scrive... Allora, 8.000 nuovi sistemi informativi, tecnici, problemi di interoperabilità, sicurezza, controllo, audit e ancora, dice, si dovrà patteggiare con 4 esattori diversi, statale, regionale, provinciale e comunale, in competizione tra loro per i soldi dei contribuenti. La sola idea, devo dire, mi mette il panico, Jean-Marie Delbo. Assolutamente. Diciamo che l'esempio è esasperato, ma non è lontano dal vero. Prendiamo poi in considerazione un'altra cosa. Facciamo l'internalizzazione, come diceva l'onorevole Ruocco, che peraltro mi sembra abbia un po' un problema. Tende a definire ogni sua proposta, non è demagogica, ma mi sembra che sia una, come dire, una scusante non dovuta, nel senso che le proposte sono tutte da valutare. Detto questo, pensiamo all'innesco. Se l'innesco è troppo vicino al cittadino, quante volte il cittadino più potente avrà la possibilità di neutralizzarlo? In poche parole, prendiamo un piccolo comune con una grande azienda. Siamo sicuri che quella grande azienda non avrà la possibilità in qualche modo di influenzare i controllori? E questo è un grande tema. E questo è un grande tema. Col fatto di far ricadere di nuovo sul più debole il peso di chi va a fare l'esattore. 9 in punto. Enrico Zanetti, c'è un problema da quel lato, da quello che sottolineava innanzitutto Jean-Marie Delbo e poi quello che ci è arrivato via SMS, insomma, il rischio della moltiplicazione dei centri di riscossione, no? Assolutamente, bisogna stare attenti a questo, però ribadisco quello che ho detto prima. Nel caso della riscossione nei piccoli comuni, delle piccole somme, il modello Equitalia non è economicamente adeguato, proprio parlo da un punto di vista funzionale, e effettivamente penalizza anche gli stessi comuni proprio perché non è strutturato per la piccola riscossione, per la riscossione dei piccoli importi. A livello locale, ipotizzare delle soluzioni in mano ai comuni, secondo me, è un'ipotesi che va considerata con attenzione, anche perché ci sono ormai già vari casi, varie situazioni, a parte quello di Caralzo con il sindaco che avete prima intervistato, ma varie situazioni in Italia che dimostrano una ottima funzionalità nel caso in cui si abbandoni il modello Equitalia. Ovviamente nel fare questo, ribadisco, bisogna stare attenti a non arrivare a quell'eccesso esposto che porta invece a voler abolire Equitalia, cosa che peraltro sarebbe puramente formale, sarebbe il solito cosa all'italiana in cui appunto cambieremmo al massimo nome da Equitalia a Paghi Italia, come ricordava prima ultimamente Jean-Marie Delbo, e il resto cambierebbe meno. Equitalia va mantenuto per le ragioni che vi dicevamo, però io insisto, anche perché nel proseguo del dibattito che ho ascoltato mi pare evidente che alcune ipocrisie permangano, va però cambiato l'equilibrio interno diciamo anche dei poteri dell'organizzazione dello Stato. Ecco, quando... ecco, Zanetti, la faccio finire, giusto per chiarire, perché proprio un ascoltatore prima ci ha scritto, non ho capito bene quello che ha detto Zanetti. Lei dice che molto semplicemente chi ha i ruoli dirigenziali in Equitalia e nell'Agenzia delle Entrate ha troppo potere. Il punto è questo, rispetto anche a livello politico, se così vogliamo dire. Peso, in questo momento ha un peso, l'Agenzia delle Entrate, che a sua volta ha il controllo di Equitalia, ha un peso in termini anche di conoscenza di flussi informativi che intermedia completamente poi il livello politico, mentre dovrebbe essere il livello politico che compone in sé le diverse funzioni. Cambiano molto le cose, cambiano moltissimo in questo momento. Infatti quello che io voglio dire, è inutile dire premesso massima solidarietà ai dipendenti di Equitalia, 5 corrotti contro 14.000 dipendenti, una percentuale minima, sì. Questo va le diamo tutte per assodate, ci mancherebbe, tra l'altro io stesso ho difeso Equitalia come ottimo organismo a livello di riscossione nazionale, però ripeto, non possiamo continuare a dire Equitalia fa solo, applica le leggi e via dicendo, perché dal 2006 in avanti, ma chi credete che le abbia scritte il 90% delle norme in materia di riscossione e accertamento? Certo, la politica che ha una gravissima colpa, sotto dettatura, ma era chi dettava, dai, è inutile che ce la raccontiamo. E chi dettava? Befera, Zanetti, chi dettava? Befera. Gli ottimi, ottimi, veramente ottimi tecnici dell'Agenzia delle Entrate, che però in quanto funzione dello Stato hanno ovviamente una visione che è orientata alla massimizzazione dell'efficacia dello svolgimento della loro funzione, che tra l'altro è importante, ma che ovviamente non consente loro di avere quella visione a 360 gradi di contemperazione delle tante esigenze contrapposte, da un lato del controllo, dall'altro però della non molestia al cittadino, che viceversa il livello politico che trova la sua sintesi nel Parlamento e nel governo ha. Purtroppo in questi anni la subalternità si è determinata. Chiarissimo Zanetti, allora abbiamo veramente pochissimo tempo. Gianmarie Delbò, in 20 secondi voleva intervenire su questo. Sottoscrivo praticamente tutto quello che ha detto Zanetti. Vorrei spezzare una lancia. Agenzia delle Entrate copre un vuoto. Se la politica non ha la forza di scrivere le norme, per dirla chiaramente, qualcun altro che le deve scrivere ci deve essere, anche perché il fisco non lo possiamo cancellare. Ruocco, 20 secondi anche per lei, che voleva intervenire. Guardi, io capisco perfettamente che ci sono 8.000 comuni, si potrebbero creare anche dei sistemi unici informativi di coordinati tra i vari comuni. Io nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate mi sono occupata di questo per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale, quindi gli strumenti ci sarebbero, non bisogna avere paura dei cambiamenti, perché altrimenti questo paese non cambia mai. Grazie Ruocco. Allora avrò ancora un minuto alla fine per Nicola Porro, ma prima voglio sentire una telefonata di Alberto dalla provincia di Modena. Buongiorno, breve anche lei. Ah, brevissimo. Ho avuto un contenzioso tributario, è durato 29 anni, 3 gradi di giudizio, 140.000 euro di spese legali. Il giudice, quando ha preso la sentenza definitiva in terzo grado, quando gli ho chiesto se potevo essere rimborsato di queste spese legali, perché lei ha vinto, perché lei ha vinto, Alberto. In ogni grado. E? L'accertamento non è mai stato riformato parzialmente, semplicemente mi hanno dato ragione in primo grado, in secondo grado e alla Commissione Tributaria Centrale in ultimo grado 2 anni fa. Durata del procedimento, 29 anni. 29 anni, ma è una meraviglia. Complessive. Alberto, guardi, io mi segno il suo numero di telefono, perché insomma questa è una storia che, come dire, mi piace molto, e vedo anche che a Jean-Marie Delbò gli occhi brillano. Vuole dire una cosa brevemente? Sì, volevo dare un suggerimento a Ruocco e Zanetti, una piccola riforma, veramente per dimostrare che qualcosa si può fare. Chiudete la tributaria centrale. Chiudete la tributaria centrale, che la Commissione Tributaria Commissione Centrale è l'organo di terzo grado che sopravvive a se stessa con un pacco di faldoni da smaltire da anni e anni. Un minuto per chiudere, Nicola Porro, che prima ha scaldato gli animi, un sacco di sms di ascoltatori che dicevano ha perfettamente ragione. Abbiamo appena, non so se ti sei scollegato per un attimo, abbiamo appena sentito Alberto della provincia di Modena che ci diceva 3 gradi di giudizio, 29 anni di contenzioso tributario, 3 gradi di giudizio, mi hanno dato ragione sempre, non mi hanno pagato 140.000 euro di spese legali che mi devono, per dire. Io però, guarda, quello che ho sentito è molto interessante, sia il responsabile del Movimento 5 Stelle, sia Zanetti, che si capisce un tecnico, però ragazzi, qua non scherziamo, stiamo dicendo che i politici sono, si fanno dettare le norme da Befera, questo è esattamente, Zanetti onesto, quello che avviene, e però ragazzi, a me mi viene la pelle d'oca. Cioè, Zanetti è troppo onesto, non può dire una cosa di questo tipo, perché è esattamente quello che noi giornalisti diciamo, però questo vuol dire che la politica non conta nulla, e in un paese democratico la politica non si fa dettare le leggi dai funzionari, punto primo. Punto secondo, e sarò velocissimo, velocissimo, non diciamo neanche balle, perché il politico si fa dettare la manovra da Befera, e dall'altra parte il politico, per prendere voti, dice: sapete qual è il problema in Italia? L'evasione fiscale, creo il mostro, l'evasione fiscale. E Befera cosa fa? Mi dà il bazooka per ammazzare a 5, 20 euro, perché queste sono anche alcune cartelle che arrivano, con il bazooka persone che magari hanno un momento di difficoltà. Terza e ultima cosa, e poi ti lascio in pace, voi mi dovete spiegare perché diciamo che vogliamo ridurre gli sprechi e dobbiamo fare gli acquisti centralizzati con la Consip in tutta Italia, e per quale dannato motivo adesso sulla riscossione dobbiamo pensare di far fare a ogni comune la sua piccola agenzia. Voi me lo dovete spiegare. Allora mettiamoci d'accordo, ogni comune per motivi altrettanto legittimi fa i suoi acquisti. Nicola, grazie, sei stato chiarissimo. Ciao. Grazie a Nicola Porro, vice direttore del giornale, conduttore di Virus su Rai 2, Gianmarie Del Bo, Enrico Zanetti, Carla Ruocco, grazie Emanuele da Bari, Alberto che non siamo riusciti a far intervenire, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo lunedì, parliamo di queste maledettissime elezioni tedesche che finalmente sono arrivate. Ricordati! Mancano 10 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.